so che le interviste sono sempre un po' noiose, ma più che altro una chiacchiera. Siamo qui a Rosso 9, presentati un attimo per i nostri amici presenti. La facciamo radiofonica questa intervista. Allora, io non so nemmeno come funziona. Chiami? Come mi chiamo? Sono Violet. Ballo. Ballerina cappuccina. Come sei arrivata conosco oggi? Conosco Federico da tantissimi anni, ho collaborato già con Rosso 9 un paio di volte, quindi ero interessata a continuare questa collaborazione. Ho conosciuto Masi a Torino l'anno scorso e eravamo subito proiettati sul fare qualcosa insieme. E questo è l'inizio della nostra collaborazione, quindi un primo seme da portare da qualche parte. Il seme è stato messo quasi un anno fa, no? E tra l'altro noi siamo sì. già venuti qui quando lo scorso anno per fare un sopralluogo in vista di una piccola produzione. Quindi abbiamo avuto tempo per farlo sedimentare, per farlo un po' muovere. Nonostante nel mezzo non ci siamo praticamente mai visti, non abbiamo mai fatto prove, è stato molto spontaneo quello che è successo. Però quel tempo che abbiamo trascorso qui assieme con la camminata e il bagno, sì. Abbiamo guardato un po' più in alto e abbiamo scelto già in quel momento, no? Un po' sì. Il punto di partenza per quella semina sì. che è avvenuta in questi giorni. Sì, ci siamo guardati un po', abbiamo fatto un po' di... Io non so brava con le parole, quindi... Sei brava a danzare. Viene fuori Sei un brava po', a danzare. Specialmente se non ho qualcosa da dire, capito? Perché effettivamente tutto succede sulla non verbalità, specialmente la danza e la musica, quindi è difficile parlarne, ma... Possiamo... La nostra... Sì? No, dicevo, potresti, se ti va, provare a dire in questi giorni quali sono state le cose che ti affiorano alla mente in questo momento, che ti sono rimaste più impresse, ecco. Posso andare a braccio? Cioè, posso dire quello che mi viene in mente? Perché ovviamente... È stato molto spontaneo, è sempre tutto molto spontaneo, lavorare con Federico sempre su un'onda di quello che sorge sul momento, ed è un approccio che mi piace molto mantenere, praticamente applicato a tutta la mia vita. E nello specifico per questa cosa, le ispirazioni sono state piantate già un anno fa, ma sono venute in maniera molto... sono venute repentinamente, cioè sono venute mentre eravamo qui e mentre venivo qui avevo delle cose che mi passavano e, alcune... non so nemmeno se ne voglio parlare perché non è da dire, da no, però sentire. Magari non parlare del tanto di dove viene il lavoro, perché quello si viene nel lavoro, sì. Però delle peculiarità che ti vengono in mente del posto, magari quello può essere interessante, cioè sia nel ricordo di un anno fa che era un'altra stagione, la differenza con questa stagione, cosa ti viene in testa come ricordo del posto? Allora, c'è una degli elementi principali di queste residenze è questa casa, perché come diciamo ieri, è questa terrazza sull'infinito e ha un forte collegamento con questa presenza costante del respiro del mare, e questo è forse stato l'elemento principale che poi abbiamo anche tentato di richiamare nel lavoro, e un po' questo contrasto con la vita umana come un piccolo elemento all'interno di un grande cerchio molto più ampio e molto più assoluto, insomma. E l'acqua com'era? Visto che ti sei fatta il bagno. L'acqua per me è un problema, perché tipo non usci, mi dice non uscire. Non te ne andare. E nonostante io sia nata lontana dal mare e non abbia avuto tanta esperienza di mare, o comunque di acqua in generale, tutte le volte che vado è appartenenza e non volersene andare, quindi l'acqua era così. Per fortuna non sei di zucchero né di sale, per cui sei uscita dall'acqua. Anche se un po' mi dispiace. Benissimo. Rini, altre domande? Tanto prima o poi ci si scioglie. Ma c'è stato pure un momento che era un po' sexy nella danza, in cui ti si facevi impregnare dal sole. Ah, quando sei stato? Sì. Io ero tentato di girare dall'altra parte, poi ho detto no, non me lo perdonerebbe mai. Veniva un po' porno. No, più che altro ho pensato, questa è una femmina. Guarda, la prima cosa che mi è venuta in mente quando siamo tornati su è stata una canzone siciliana che c'è un passaggio che dice il sole entra nel mare e fanno l'amore. Quindi, decisamente. Dopotutto il bello della vita è anche il sentire profondamente delle cose molto semplici. L'arte nel suo immediato, prima che diventi parola, ci fa sentire, no? Sta lì per farci sentire, per educare il sentire, un po' come puoi parlare del buon vino quanto ti pare, ma poi se non lo bevi non lo sai il vino. E quello che poi è successo, proprio andando lentamente un passo dopo l'altro verso il mare, dentro il mare, era un po' andare verso quell'infinito di cui abbiamo accennato proprio ieri, e quindi vivere quell'esperienza del fondersi con questo infinito che noi in questi giorni abbiamo sempre un po' osservato, no? Più che sperimentato. Però con la parte finale della danza di questa mattina hai toccato quell'infinito, almeno l'impressione che noi abbiamo, almeno perlomeno per quanto mi riguarda, che ho avuto, è stata proprio questa. Spesso sono successe tante cose mentre andavo, tolto che è stato proprio, non ero io che andavo, ma qualcosa, la corda che tirava, no? Quindi poi Sì, è stato tipo, vabbè, non mi frega nemmeno se mi stanno riprendendo, io devo andare, e soprattutto non vedevo dove stavo andando, cioè era proprio, succede, e se c'è un buco io ci casco dentro e va bene. Ed è stato così, l'ho sentito, l'esperienza è andata così. Bene, grazie Violet. Grazie. Grazie mille, ben trovata a Rosso 9. Sei anche rossa oggi. No. Sei anche in questo momento che tu dici non è proprio il tuo ambiente ideale, no? Quello della parola, sei perfettamente in sintonia. Sì. Non sono io, è lei. È l'acqua, è il cielo, è l'aria. Le nuvole che questa mattina hanno aggiunto qualcosa, devo dire. Sì, hanno dipinto un po'. Sì, rispetto a ieri che era così pieno, proprio pieno sole, eccetera, il velato della nuvola ha creato una luce particolare, sì, che ha aiutato molto. Va bene, grazie. Grazie. Io ancora. Grazie. A voi.